Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il commesso di Bernard Malamud, traduzione di Giancarlo Buzzi. Erano i primi di novembre e all'alba l'oscurità della notte durava ancora nella strada, ma il vento, con meraviglia del negoziante, già imperversava. Gli sbatté con violenza il grembiule in faccia mentre si chinava a raccogliere le due cassette di latte dal bordo del marciapiede. Ansimando, Morris Bober trascinò fino alla porta i pesanti recipienti. Nel vano un voluminoso sacco marrone pieno di panini di pasta dura e la testa grigia, il volto stizzoso della polacca che se ne stava rannicchiata là ad aspettare di farsene dare uno. «Come mai così in ritardo?» «Sono 6:10», disse il negoziante. «Fa freddo», si lamentò lei. Lui girò la chiave nella toppa e la fece entrare. Di solito riponeva le bottiglie del latte e accendeva i caloriferi a gas, ma la polacca era impaziente. Morris vuotò il sacco di panini in una cesta metallica sul banco, gliene scelse uno senza semi, lo tagliò a metà e lo avvolse in un foglietto di carta bianca. La donna infilò il pane nella sporta di corda, lasciando 3 penny sul banco. Morris registrò la vendita su un vecchio rumoroso registratore di cassa, ripiegò con cura e ripose il sacco del pane, finì di portare dentro il latte e sistemò le bottiglie nel frigorifero in basso. Accese il calorifero a gas in negozio e andò nel retrobottega ad accendere l'altro. Fece bollire il caffè in un bricco di porcellana annerita e lo assaggiò masticando un panino senza nemmeno sentirne il sapore. Finì di far pulizia e si mise ad aspettare. Aspettava Nick Fuso, l'inquilino del piano di sopra, un giovane meccanico che lavorava in un garage del rione. Nick veniva ogni mattina verso 7:00 a prendere 20 cents di prosciutto e una pagnotta. Invece si aprì la porta del negozio ed entrò col viso arrossato e gli occhi eccitati una ragazzetta di 10 anni. Morris non le diede in cuor suo il benvenuto. «Dice mia madre», fece in fretta, «se può darle a credito fino a domani 0,5 chilo di burro, una pagnotta di segale e una bottiglietta di aceto di sidro». Lui la conosceva, la madre. «Non faccio più credito». La ragazza scoppiò in lacrime. Morris le diede un etto di burro, il pane e l'aceto. Sul vecchio banco consunto, vicino al registratore di cassa, trovò un angolo con delle scritte a matita e sotto la voce ubriacona aggiunse una cifra. Il totale ammontava ora a $2.03. Non sperava più di riaverli. Ma Ida lo avrebbe rimproverato se si fosse accorta di un'aggiunta, così ridusse il totale a $1.61. La sua pace, la poca pace di cui disponeva, valeva bene 42 cents. Si mise a sedere su una seggiola accanto al tavolo rotondo di legno del retrobottega e scorse attentamente con le sopracciglia inarcate il giornale ebraico del giorno precedente che aveva già letto dalla prima all'ultima riga. Di tanto in tanto lasciava vagare lo sguardo attraverso il riquadro aperto nel muro a mo' di vetrina per vedere se per caso qualcuno era entrato in bottega. Qualche volta, alzando lo sguardo dal giornale, lo sorprendeva la presenza silenziosa di un cliente davanti al banco. Ora il negozio somigliava a una lunga galleria buia. Il negoziante sospirò e attese. Ad attendere gli pareva di fare una cosa meschina. Quando i tempi erano brutti, era brutto anche far passare il tempo. Le ore morivano Mentre lui stava ad aspettare e gli marcivano sotto il naso. Entrò un operaio a comprare una scatola di sardine norvegesi da 15 cents, marca King Oscar. Morris si rimise ad aspettare. In 21 anni il negozio era cambiato poco. Due volte lo aveva ridipinto tutto, una volta aveva aggiunto una nuova scaffalatura. 10 anni prima l'insegna appesa fuori era caduta, ma Morris non l'aveva mai sostituita. Una volta che gli affari erano andati bene per un po', aveva fatto installare in luogo della ghiacciaia di legno un frigorifero bianco a vetrina. Il frigorifero stava nella parte anteriore del negozio, allineato al banco di vendita, e lui vi si appoggiava spesso quando guardava fuori. Per il resto nulla era mutato. Anni addietro aveva cominciato come negozio da pizzicagnolo. Ora, benché vendesse ancora un po' di salumi, s'era ridotto a una botteguccia di alimentari. Passò una mezz'ora. Non essendosi fatto vivo un icfuso, Morris si alzò e andò a guardar fuori, appostato dietro la vetrina, il cartellone pubblicitario sistemato da quelli della birra nella vetrina altrimenti spoglia. Poco dopo il portone si aprì e ne uscì Nick in un pesante maglione verde lavorato a mano. Girò l'angolo e fu presto di ritorno con la sporta della spesa ricolma. Morris ora non si nascondeva più lì dietro alla vetrina. Nick vide con che faccia lo guardava, ma girò subito lo sguardo. Si precipitò in casa cercando di dare a vedere che era il vento che lo faceva andare di furia. La porta gli sbatté alle spalle, una porta rumorosa. Il negoziante guardò in strada. Desiderò per un attimo di poter essere di nuovo fuori all'aperto, come quando era ragazzo, che non stava mai in casa, ma il rumore minaccioso del vento lo spaventò. Pensò di nuovo a vendere il negozio, ma chi lo avrebbe comprato? Ida ci sperava ancora, ogni giorno ci sperava. Quel pensiero gli strappò un sorriso amaro, benché non avesse voglia di sorridere. Era un'idea assurda ed egli cercò di scacciarsela dalla mente. Eppure c'erano dei momenti in cui si ritirava nel retrobottega e versava un goccio di caffè e indugiava piacevolmente su quell'idea di vendere. Ma se per un caso strano fosse riuscito a vendere, dove sarebbe andato? Per un attimo si sentì a disagio immaginandosi senza tetto. Si vide in balia delle intemperie, fradicio di pioggia, col capo coperto di neve gelata. No, era un secolo che non passava un'intera giornata all'aperto. Da ragazzo, sempre a correre per le strade del villaggio, fangose e solcate di careggiate, o nei campi, oppure a bagnarsi nel fiume con gli altri ragazzi. Ma da adulto, in America, raramente aveva visto il cielo. Nei primi tempi sì, quando conduceva il carretto col cavallo, ma col suo primo negozio tutto era finito. In un negozio uno è sepolto. Il lattaio si fermò col camion davanti alla porta ed entrò con l'impeto di un toro a ritirare le bottiglie vuote. Ne trasportò fuori una cassa e tornò con due mezze pinte di crema di latte. Poi fu la volta di Otto Vogel, il fornitore di carne, un tedesco dai baffi cespugliosi, che portava una salsiccia affumicata di fegato e una sfilza di Wülster nella cesta unta. Morris comprò in contanti la salsiccia di fegato perché da un tedesco non voleva favori. Otto se ne andò con i Wülster. Il garzone del panettiere che faceva quel giro per la prima volta cambiò tre pagnotte rafferme con tre fresche e uscì senza dire una parola. Leo, il fornitore di dolciumi, data una rapida occhiata alla torta ancora incartata sul frigorifero, gridò: «Arrivederci a lunedì, Morris!» Morris non rispose. Leo esitò. «Va male dappertutto, Morris. Qui È peggio che dappertutto. A lunedì, una giovane massaia del vicinato fece spese per 63 cents, un'altra per 41. Aveva guadagnato il primo dollaro della giornata. Breitbart, il venditore ambulante di lampadine, depose i suoi due enormi scatoloni ed entrò timidamente nel retrobottega. «Vieni», lo invitò Morris. Fece bollire il tè e lo servì con una fettina di limone in un bicchiere dal vetro spesso. Il venditore ambulante si accomodò su una sedia, tenendo cappotto e bombetta, e trangugiò il tè caldo col pomo d'Adamo che gli ballonzolava. «E allora, come vanno le cose?» chiese il negoziante. «Fiac», rispose Breitbart con un'alzata di spalle. Morris sospirò. «Come sta il ragazzo?» Breitbart fece un cenno distratto col capo, poi prese il giornale ebraico e si mise a leggere. Dopo 10 minuti si alzò, si grattò da tutte le parti e, caricatisi sulle spalle magre i due scatoloni legati insieme con una corda da bucato, se ne andò. Morris lo guardò uscire. Il mondo soffre. Era lui a sentirne tutto lo schmerz, la pena. All'ora di pranzo scese Ida. Aveva pulito tutta la casa. Morris se ne stava in piedi accanto al divano stinto a guardare dalla finestra che dava sul cortile. Aveva pensato a Efraim. Sua moglie gli vide gli occhi umidi. «Smettila una buona volta, per favore!» Anche i suoi occhi si inumidirono. Morris andò all'acquaio, si versò dell'acqua fredda nelle mani a coppa e vi immerse il viso. «L'italiener», disse mentre si asciugava, «stamattina è andata a comprare nel negozio di fronte». Ida si irritò. «E tu gli dai 5 camere per $29 perché ti sputi in faccia?» «Chi dice che mi sputa in faccia?» «Non ho detto questo. Gli hai forse detto qualcosa di brutto?» «Io? Allora perché è andato nel negozio di fronte?» «Perché? Valla a chiedere a lui», disse rabbiosamente. «Quanto hai incassato fino adesso?» «Una miseria». Lei gli voltò le spalle. Morris fregò distrattamente un fiammifero e accese una sigaretta. «Smettila di fumare», lo rimproverò Ida. Aspirò in fretta una boccata, staccò l'estremità accesa con l'unghia del pollice e ficcò svelto il mozzicone sotto il grembiule nella tasca dei pantaloni. Il fumo lo fece tossire, una tosse rauca che lo fece diventare rosso in viso come un pomodoro. Ida si turò le orecchie. Alla fine Morris tirò su un grumo di catarro. Si passò il fazzoletto sulla bocca e poi sugli occhi. «Sigarette», disse lei amaramente. «Perché non dai retta a quel che ti dice il dottore?» «I dottori», disse Morris. Poi notò il vestito che lei aveva indosso. «C'è festa?» Ida, imbarazzata, disse: «Ho pensato che magari oggi verrà il compratore». Aveva 51 anni, 9 anni meno di lui. I folti capelli ancora quasi tutti neri, ma il viso era segnato e le gambe le dolevano quando stava troppo a lungo in piedi, benché portasse ora delle scarpe con supporti ortopedici. Quella mattina si era svegliata con un sentimento di rancore verso il negoziante per averla, tanti anni addietro, trascinata lì, in quel rione, lontano dal quartiere ebraico. Ancora oggi sentiva la mancanza dei loro vecchi amici e compatrioti, perduti per inseguire un miraggio di prosperità che non s'era realizzato. Già questo era motivo sufficiente di tristezza, ma l'avere, oltre all'isolamento, una preoccupazione economica continua la esasperava. Condivideva malvolentieri la sorte del negoziante, benché non lo desse a vedere e la sua insoddisfazione si manifestasse soltanto sotto la forma del rimbrotto domestico. la sua colpa era d'averlo indotto a comperare un negozio di alimentari quando frequentava il primo anno della scuola serale superiore per prepararsi, le aveva detto, a studiare farmacia. Col passar degli anni lui diventava sempre più difficile da smuovere. In passato le riusciva qualche volta di tenergli testa, ma ora la sua testardaggine superava le forze di Ida. «Un acquirente», brontolò Morris, «verrà alla prossima Purim». «Non farlo spiritoso. Carp gli ha telefonato». «Carp», disse con disgusto. «Da dove gli ha telefonato quel pidocchio?» «Da qui». «Quando?» «Ieri. Tu dormivi». «Cosa gli ha detto?» «Che c'è un negozio in vendita, il tuo, a buon prezzo». «Come sarebbe a dire a buon prezzo?» «La licenza non vale più nulla. Per la merce e gli infissi, che non valgono niente neanche quelli, 3.000 o meno ancora. A me è costato 4.000. 20 anni fa», rispose lei stizzita. «Vuole anche la casa?» «Carp non lo sa. Può darsi». «Fanfarone! Figurati! Un uomo che 4 volte l'hanno rapinato negli ultimi 3 anni e ancora non ha fatto mettere il telefono. Quello che dice non vale un soldo bucato. Mi aveva promesso che non mi avrebbe messo un negozio di alimentari all'angolo. E cosa ci ha messo? Un negozio di alimentari. Perché invece di portarmi dei compratori non ha tenuto lontano il tedesco che si è piazzato qui all'angolo?» Ida sospirò. «Cerca di aiutarti adesso, perché gli fai compassione». «Chi ha bisogno della sua compassione?» disse Morris. «Chi ha bisogno di lui? Perché allora non hai avuto tu il buon senso di trasformare il negozio di alimentari in un negozio di vini e liquori quando davano le licenze? E chi aveva i contanti per farsi il magazzino? E allora, se non hai i mezzi, è inutile che chiacchieri. Un negozio per vagabondi ubriaconi. Un negozio è un negozio. Quello che Julius Carp incassa qui a 2 passi in un giorno, noi non lo incassiamo in 2 settimane. Ma Ida vide che era seccato e cambiò argomento. «Ti avevo detto di dare la cera al pavimento. Me ne sono dimenticato. Sai che ci tenevo. Lo farò dopo. Dopo i clienti cammineranno sulla cera e sporcheranno tutto». «Che clienti!» gridò. «Quali clienti? Chi mette piede qui dentro?» «Va», gli disse lei con voce pacata, «va di sopra a dormire. La darò io la cera». Ma lui tirò fuori la latta della cera e lo straccio e lucidò il pavimento fino a far prendere al legno un cupo splendore. Nessuno era entrato. Helen stamattina è uscita senza far colazione. Non aveva fame. È preoccupata per qualcosa. Egli disse sarcastico: «Per cosa vuoi che sia preoccupata?» Intendendo il negozio, la salute di lui, il fatto che la maggior parte del magro stipendio andava a sostenere le spese della casa e che, mentre avrebbe voluto frequentare l'università, s'era dovuta accontentare di un impiego che non le piaceva. Con un padre così è naturale che non avesse voglia di mangiare. «Se solo si sposasse», sussurrò Ida. «Lo farà». «Presto», trattenne a stento le lacrime. Lui grugnì. «Non capisco perché non vede più Nat Purr. Tutta l'estate sono stati insieme come 2 innamorati», disse Ida. «È uno che fa tante chiacchiere e basta. Diventerà un ricco avvocato un giorno. Non mi piace. Anche Lewis Carp le sta dietro. Helen dovrebbe tener presente anche lui». «Uno stupido», disse Morris, «come il padre. Tutti sono degli stupidi all'infuori di Morris Bober». Morris aveva lo sguardo fisso sul cortile. Mangia una buona volta e va a dormire, disse lei spazientita. Lui finì la minestra e se ne andò di sopra. In camera da letto abbassò sospirando le tapparelle scure. Era già mezzo addormentato, tanto era il piacere con cui pregustava il sonno. Era il suo unico vero svago. Andare a dormire lo eccitava. Morris si tolse grembiule, cravatte e pantaloni, deponendoli su una sedia. Seduto sulla sponda del grande letto sbilenco, si slacciò le scarpe sformate, infilandosi sotto le lenzuola fredde, in camicia, mutandoni e calze bianche. Affondò gli occhi nel cuscino, aspettando il tepore. Stava per assopirsi. Ma di sopra Tessy Fuso faceva andare l'aspirapolvere e benché tentasse di cancellare l'episodio dalla mente, il negoziante ricordò la visita di Nick al tedesco e, in procinto di addormentarsi, fu preso dallo scoramento. Ricordò i brutti momenti che aveva superato, ma adesso era peggio di una volta. Erano tempi impossibili. Il suo negozio era sempre stato un negozio da poco, oggi su e domani in ribasso, a seconda di come spirava il vento. Nei primi tempi, appena l'aveva acquistato, il negozio era buono per quella zona. Era peggiorato quando era peggiorata la zona. Ciononostante, ancora un anno fa, tenendo aperto 7 giorni su 7 e 16 ore al giorno, poteva cavarne di che vivere. Che razza di vita? Beh, quel tanto che bastava per campare. Ora, benché sgobbasse duramente per lo stesso numero di ore, era sull'orlo del fallimento e la sua resistenza era a pezzi. Prima, quando i tempi erano brutti, in un modo o nell'altro ce l'aveva sempre fatta a resistere. E quando gli affari erano andati meglio per tutti, più o meno erano andati meglio anche per lui. Ma da 10 mesi a questa parte, da che Schmitz aveva aperto all'altro lato della strada, tutto andava male. L'anno passato un sarto fallito, un poveraccio che aveva la moglie ammalata, aveva chiuso bottega e se n'era andato. Dal momento in cui il negozio era rimasto vuoto, Morris aveva cominciato a sentirsi rodere dall'ansia. Era andato con esitazione da Carpe, proprietario dello stabile, a chiedergli per favore di non lasciare che vi si stabilisse un altro negozio di alimentari. In un quartiere come quello uno era più che sufficiente. Se ci si fosse messo un altro, avrebbero fatto la fame tutti e due. Carpe aveva risposto che il quartiere era meglio di quanto lui pensasse. Tuttavia aveva promesso che avrebbe cercato di affittare a un altro sarto o magari a un calzolaio. Così aveva detto, ma lui non ci aveva creduto. Intanto le settimane passavano e il negozio restava vuoto. Benché Ida ridesse delle sue preoccupazioni, Morris non riusciva a vincere il suo cattivo presentimento, finché un bel giorno, come lui si aspettava da tempo, nella vetrina vuota era comparsa una scritta che annunciava l'apertura di un nuovo negozio di alimentari e drogheria. Morris era corso da Carp. «Cosa mi hai combinato?» Il commerciante di liquori si era stretto nelle spalle. Hai visto quanto tempo è rimasto vuoto? Le tasse, chi me le paga? Ma non ti preoccupare, aveva aggiunto. Lui venderà più salumi e tu più generi di drogheria. Aspetta e vedrai che ti farà aumentare la clientela. Morris aveva emesso un gemito. Sapeva cosa aspettarsi. Ma col passare dei giorni, e il locale che continuava a restare vuoto, sempre più vuoto, si era sorpreso a pensare che magari il nuovo negozio non si sarebbe mai aperto. Forse l'altro aveva cambiato idea. Poteva darsi che, accortosi della povertà del quartiere, non si azzardasse ad aprire. Morris avrebbe voluto chiedere a Carp se aveva indovinato, ma non se la sentiva di umiliarsi ancora. Spesso, dopo la chiusura del negozio la sera, girava di nascosto l'angolo attraversando la strada tranquilla. Il locale vuoto, buio e deserto era di fianco al drugstore dell'angolo, sulla sinistra. E se non c'era nessuno, il negoziante sbirciava dalla vetrina polverosa, cercando di scorgere nell'ombra se in quel vuoto qualcosa era mutato. Per 2 mesi tutto era rimasto uguale e ogni sera Morris aveva potuto tornarsene a casa con la condanna di ferita. Infine, un giorno, si era accorto che era Carp stavolta a cercare di evitarlo e aveva intravisto la sagoma di una scaffalatura spuntare dal muro posteriore. La speranza cui si era aggrappato era andata in frantumi. Nel giro di pochi giorni gli scaffali si erano ramificati lungo gli altri muri e ben presto tutto il locale, con scaffalature e ripiani ormai a posto, aveva brillato di pittura fresca. Morris odiava il nuovo negozio, eppure in modo curioso lo amava anche, tanto che talvolta, entrando nel proprio antiquato locale, ne provava fastidio. Ora capiva perché Nick Fuso quella mattina avesse girato in fretta l'angolo e avesse attraversato la strada, per assaggiare la modernità del locale e farsi servire da Heinrich Smith, un energico tedesco vestito come un dottore con una giacca bianca di tela. Ed ecco dove erano andati definitivamente molti altri suoi clienti, dimezzando il suo misero reddito in maniera impossibile. Morris si sforzò di dormire, ma non gli riuscì e cominciò ad agitarsi nel letto. Dopo un altro quarto d'ora decise di vestirsi e tornar giù, ma quietamente, senza dolore, gli si insinuò nella mente l'immagine del figlio Efraim da tanto tempo perduto e piombò in un sonno calmo e profondo. Finisce qui questa prima puntata di questo nuovo ciclo di Ad Alta Voce in cui Paolo Graziosi ci legge Il commesso di Bernard Malamud nella traduzione di Giancarlo